Registrazione della presentazione del libro Cretas Autogestione nella Spagna Repubblicana, delle edizioni La Baronata, che ha avuto luogo venerdì 17 marzo 2006 al Museo d'Arte di Mendrisio. All'incontro sono intervenuti Claudio Benza, docente di storia della Spagna contemporanea all'Università di Trieste, e gli autori Encarnita e Renato Simoni. A cura di www.scatolanera.ch. Hanno chiesto a me di introdurre la presentazione, cercherò di essere breve per dare agli oratori il massimo di tempo. Sono uno degli editori, mi chiamo Edizzaro, del libro di Cretas, e di cui si parlerà fra poco, e approfitto dell'occasione per semplicemente fornire alcune indicazioni sulla casa editrice La Baronata. Come ho già avuto modo di dire in un'altra occasione, il programma editoriale delle edizioni La Baronata, che ha pubblicato, sta per pubblicare una trentina di titoli, può essere paragonato al saltellare di una cavalletta, nel senso che tocca o ha toccato vari argomenti, rimanendo comunque sempre nel giardino dell'anarchismo o nel prato del movimento libertario. Ha pubblicato classici del pensiero anarchico, saggi sull'ateismo, saggi sulla pedagogia libertaria, sul pacifismo, sull'antimilitarismo, ricerche storiche e biografiche di personaggi o militanti anarchici e socialisti, e anche, si potrebbe dire, persino delle opere di narrativa. In questo incedere da cavalletta della Spagna, nel suo aspetto libertario o anarchico, ci siamo già occupati in altre due occasioni. Innanzitutto abbiamo pubblicato la prima edizione italiana, era il 1980, della Scuola Moderna di Francisco Ferrer, un pedagogo libertario e razionalista catalano della fine 800-inizio 900, fucilato nel 1909 dalla monarchia spagnola sobillata dal clero cattolico che allora imperavano. La condanna a morte di Ferrer fece molto scalpore in tutto il mondo e provocò numerosissime manifestazioni e azioni di protesta. Se ne ebbero a echi anche in Ticino, tant'è che a Novaggio, paesino qui del Malcantone, sulla facciata del municipio, nella piazza del paese dove c'è anche la chiesa, è apposta una lapide dal 1911 che ricorda appunto il propagandista e educazione libertario. Ma la volontà di dedicare la piazza a Ferrer era già di poche settimane dopo la morte, penso il mese di dicembre. Lui è stato ucciso nell'ottobre. La lapide fu affissa grazie ai massoni e socialisti ticinesi ed è chiaramente ferocemente avversata, come si può intuire, dal clero cattolico locale. Nel libro La Scuola Moderna si parla anche di un'esperienza di insegnamento laico e razionalista svolto a Ginevra dal 1910 al 1919, un'esperienza appoggiata dai sindacati anarchici e socialisti, dal movimento del libero pensiero e dai gruppi anarchici della Svizzera romanda. Questo per dire cosa erano l'importanza che hanno avuto gli echi della Spagna anche nel Ticino e nella Svizzera. L'altro libro da noi pubblicato nel 1986 è il diario di un volontario svizzero nella guerra di Spagna, scritto da Albert Minnich, un operaio odile romando che era apparso a suo tempo sul periodico anarchico bilingue Il Risveglio, Le Réveil di Luigi Bertoni, un ticinese emigrato a Ginevra e per 40 anni è stato il redattore del giornale bilingue. Tra parentesi, di Bertoni, Bottinelli, che è qui in sala ed è l'altro responsabile dell'edizione La Baronata, ha scritto una bellissima biografia, la prima pubblicata da noi anche per La Baronata. Il diario tratta del racconto dell'esperienza di Minnich come volontario nelle milizie anarchiche della Sinete Fai, che si sono battute contro i militari ribelli con a capo Francisco Franco. Tra l'altro ha combattuto in una regione molto vicina a Cretas, quella di cui poi parleranno gli autori e Benza. Ora, quest'anno, diciamo, nel settantesimo della Rivoluzione Spagnola, 1936-2006, esce questo libro, Cretas, Autogestione nella Spagna Repubblicana, 1936-1938, che descrive un altro aspetto che concerne la Spagna e la sua importanza per la storia del movimento libertario, quella delle collettivizzazioni, o come si direbbe adesso, quello dell'autogestione, di una parte molto importante della popolazione spagnola. Ma di questo libro parleranno con più competenza gli autori, Encarnita e Renato Simoni, e anche Claudio Venza, che ne ha curato la prefazione. Voglio solo puntualizzare, questo come è stato fatto ieri sera a Milano, dove siamo andati a presentare il libro, cioè che se la gestazione della pubblicazione ha avuto una durata da elefante, forse qualcosa di più, e anche perché ogni volta che Encarnita e Renato andavano in Spagna, e ci vanno due volte all'anno, ritornavano sempre con nuovi materiali, nuovi episodi, nuove informazioni che dovevano essere messi nel testo. La mia non è una lamentela, tutt'altro, anche se ho impaginato 4 volte il libro e sono 350 pagine, ma è solo per sottolineare come la ricerca da parte dei Simoni sia continuata e sia stata costantemente aggiornata fino all'altro giorno. Una breve informazione ancora, per onorare degnamente questo anniversario, il 70°, è nostra intenzione, come edizione La Baronata, uscire in autunno con un altro testo sulla guerra di Spagna. Sono i ricordi inediti in italiano, ma in spagnolo sono usciti l'anno scorso e in francese la settimana scorsa, di un miliziano italo-francese, Antonio Jiménez o Bruno Salvadori, ricordi della guerra, della collettivizzazione, delle dispute ideologiche, ma anche del suo amore, o meglio, dei suoi amori per le donne. Il titolo spagnolo è esplicito, dell'amor, la guerra e la rivoluzione. Quello francese più pudico, Les Fils de la Vie. In italiano vedremo, non sappiamo ancora. Comunque adesso passo la parola a Encarnita che parlerà perlomeno di che libro è fuori. Non lo dici. Il libro, se ci sono ancora purtroppo poche copie, probabilmente visto la grande quantità di gente che è arrivata, comunque in vendita fuori nel corridoio. Passo in carita. Ecco. Grazie. Questo si può agganciare? O... Sì, perché sennò non mi sentono. No, no, anche perché si vende fuori. Così va bene? Mi sentite così? Ecco, grazie. Cari amici, vi ringrazio moltissimo per essere qui stasera. E io comincerò a parlarvi della genesi di questo libro e dopo Renato vi entrerà più nell'argomento più a fondo, mentre il professor Venza farà le sue considerazioni in terzo luogo. Ecco, io già da bambina a casa mia ho sentito parlare ripetutamente delle collettivizzazioni anarchiche che c'erano state durante la guerra, in quanto i miei genitori sono stati testimoni e attori di quello che è successo a Cretas. Mio papà aveva 30 anni, mia mamma 26, avevano già 2 bambini. A partire del 38, mio papà è stato soldato repubblicano, mia mamma è stata profuga nella vicina Catalogna con i miei 2 fratellini. I discorsi che io sentivo a casa provenivano da conversazioni che mia mamma teneva con delle vicine, delle amiche, soprattutto nelle lunghe serate d'inverno, intorno al focolare, quando passavano delle ore a rammendare, a fare maglia, e io che stavo lì facendo i compiti o ricamando, prestavo subito attenzione quando sentivo che cominciava la frase durante la collettività, perché sentivo parlare di cose che veramente mi sembravano stranissime. Parlavano di andare in piazza e ricevere gli alimenti gratuitamente, ognuno secondo le proprie necessità. Parlavano di lavori di gruppo in campagna, tutti insieme, in armonia, di canti, di conferenze in piazza, di uscite dei giovani in comune. E oltre queste grandi cose che io non avevo mai visto, parlavano della tale donna, della tale altra, che faceva questo, diceva quello, e io sentivo parlare di certe signore ricche del paese che io conoscevo benissimo e che in quell'epoca strana andavano al lavatoio a lavare i panni, andavano in campagna a raccogliere i frutti, le olive, il grano, quello che ci fosse, come qualsiasi altra contadina. Quindi io avevo l'impressione che stessero parlando di un mondo alla rovescia, perché fuori casa io vivevo un'altra realtà, cioè la maestra, il prete erano quelli che ci tenevano un po' dominati, tutto era peccato, tutto era controllato. Le bambine eravamo d'ufficio della confraternita delle figlie di Maria, quindi questo controllo che io avevo fuori, questa storia che mi si raccontava fuori, era completamente diversa di quello che mi dicevano, cioè che sentivo nelle conversazioni tra mia mamma e le sue amiche. A volte queste conversazioni finivano in lacrime, perché una di queste nostre amiche era stata parecchi anni in carcere dopo la guerra, e anche suo marito. Altre volte magari ridevano, ricordando qualche aneddoto divertente di quei tempi, calcolando che la guerra, le battaglie, il fronte sono stati per lunghi anni lontani dalla nostra zona, 2 anni praticamente. Quindi io sentendo queste conversazioni mi accorgevo anche che erano tipiche dell'inverno, nel senso che erano fatte a bassa voce, guardandosi le spalle, che non arrivasse qualcuno di colpo, che nessuno sentisse dalla strada, e mai le ho sentite quando d'estate si cuciva all'ombra di un qualche angolo in strada. E un'altra cosa curiosa è che non le ho mai sentite fare a mia madre e mio padre insieme davanti a me. Mio papà durante la collettivizzazione era stato pastore del gregge collettivo, quindi essendo fuori dal villaggio, dal centro del villaggio tutti i giorni, forse ha vissuto meno quegli avvenimenti che mia mamma vedeva giorno per giorno in piazza. E poi a loro sentivo fare dei discorsi diversi, sempre a bassa voce, sempre in casa, riguardo certe rappresaglie che magari la Guardia Civile aveva maltrattato qualcuno, aveva convocato qualcuno in caserma, era andato di notte a casa di qualche vicino, e penso che mio papà aveva un po' paura che succedesse che qualcuno ci delatasse se sentiva questi discorsi in casa nostra. Comunque, una volta emigrata in Svizzera a 15 anni, ho potuto fare delle riflessioni con una maturità maggiore e con una certa distanza, e ho capito che i miei, nonostante la guerra, in quel loro microcosmo avevano vissuto un'epoca di fratellanza, di giustizia, di uguaglianza, che durante l'epoca franchista era pericoloso quasi ricordare, non solo parlarne, anche averne il ricordo. Allora, io mi sono sentita sempre attratta per conoscere, per saperne di più di quel periodo. Quindi, conoscendo Renato, anche lui è passato a sentire queste sensazioni, e attraverso gli studi ci si poneva l'occasione di arrivare veramente a capirne un po' di più. Quindi noi abbiamo cominciato questa ricerca sul mio paese nel lontano 1977, mentre eravamo studenti di storia all'Università di Ginevra, e già da subito ci si è posto un grosso problema, cioè l'assenza pressoché totale di fonti scritte. In un'epoca in cui per la ricerca storica in lettere la prassi era occuparsi di documenti, andare negli archivi, cercare delle fonti e studiare questo, mentre che per noi si poneva il problema di non avere quasi altro, in un primo momento, che le fonti orali. Allora, noi conoscevamo già cosa era successo nella guerra, conoscevamo quello che era successo nel paese, però appunto ci trovavamo di fronte a questo dilemma. Il nostro professore, Jean-Claude Favé, per fortuna ci ha appoggiato da subito, ci ha incoraggiato a partire anche se fosse in questa direzione, avendo solo delle fonti. Le fonti orali, noi le abbiamo, mi scuso, le fonti scritte, noi le abbiamo cercate sul periodo della guerra ad Amsterdam, a Salamanca, a Perpignano, nei luoghi dove sapevamo che ci poteva essere qualcosa, ma con scarso successo. Sempre per le fonti scritte, quello che abbiamo trovato in paese erano dei registri di proprietà del paese e dei paesi confinanti, perché c'erano delle persone che avevano proprietà altrove, non solo nel villaggio stesso, i registri di stato civile, che ci hanno concesso di realizzare una scheda per ogni famiglia del paese, nella quale figurava perfino il grado di alfabetizzazione di queste persone, e abbiamo trovato alcuni documenti che gli esuli in Francia o gli abitanti del paese avevano, del tipo lettere, quaderni di scuola, foto, ricevute, qualche contratto, eccetera. Due anni fa c'è stato un colpo di fortuna che, se ci fosse successo nel 77, avrebbe fatto la nostra gioia, perché presso un commerciante di Cretas abbiamo saputo che c'era un documento che lui aveva trovato facendo dei restauri in una stalla, sotterrato in una scatola di latta, e che era, diciamo, come si potrebbe dire, il verbale del consiglio municipale del paese nel 1937. Sappiamo che in quella scatola c'erano altri documenti che non abbiamo ancora potuto vedere, perché questo signore si rifiutava con mille scuse di mostrarci il documento. Io vi giuro, ho pianto davanti a lui per dire che, per piacere, in ricordo della vecchia amicizia che lo legava a mio papà, ce lo lasciasse consultare. Siamo riusciti a salire nel suo magazzino polveroso. Renato, dopo un attimo, cioè dopo due minuti, l'aveva già scovato. Quindi abbiamo potuto avere tra le mani un documento che era fondamentale. Però vedete, questo ritardava la pubblicazione, chiaro, c'era sempre qualcosa da aggiungere. Ecco, se passiamo alle testimonianze orali, è chiaro che pongono dei rischi, cioè sono ricordi, sono memoria, non sono storia. E in più bisognava calcolare la nostra inesperienza in quanto intervistatori, perché non eravamo preparati in fondo per realizzare questo tipo di lavoro, perché forse erano più preparati gli studenti di sociologia, di antropologia, e quindi abbiamo improvvisato un pochino, correggendo il nostro atteggiamento gradualmente. Le fonti orali ci sembrava veramente utile difenderle, in quanto nella Spagna rurale degli anni 30 e con un 50% di analfabetismo era importantissimo che certe testimonianze non si perdessero per sempre. Cioè, attraverso della testimonianza orale coinvolgevamo direttamente fasce della popolazione che non avevano che questo, che il gesto, che la parola, per manifestare la loro esperienza vissuta. Abbiamo cercato di dare la parola al mondo contadino, che prendeva così le redini della propria storia. E quindi, per noi le fonti orali non dovevano essere relegate a fonti accessorie, ma dovevano diventare il perno intorno al quale inserire le altre fonti, quel po' che avevamo. A questo punto abbiamo elaborato, una volta convinti della nostra decisione, abbiamo elaborato un canovaccio che andavamo adattando a seconda degli intervistatori, rendendolo sempre più duttile, più utile per quello che noi cercavamo, senza ferire anche la sensibilità delle persone. Quindi abbiamo capito che dovevamo andare con molta cautela, soprattutto al momento di parlare delle vittime che c'erano state, perché all'inizio del conflitto a Creta sono state morte o uccise 16 persone, tra cui 3 sacerdoti. La nostra posizione di membri del villaggio, da un certo punto di vista, perché siamo stati là 9 mesi, grazie a una borsa di studio che ha ottenuto Renato del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e quindi questa nostra posizione di gente che abita lì, io figlia di lì, e poi il fatto di lavorare per una lontana università, Ginevra, unitola veramente a dare la certezza alle persone che avremo conservato l'anonimato sulle loro interviste, si è mostrato favorevole per noi. Allora, abbiamo elaborato una lista di persone da intervistare in modo da avere un campionario ben rappresentativo della situazione del paese durante il momento dell'autogestione. Quindi gente integrata, cioè in partiti diversi, gente apolitica, ricchi, poveri, gente colta, gente analfabeta, uomini, donne, bambini. Abbiamo avuto i quaderni di un allievo che tra l'altro è l'unico che è tuttavia in vita, il bambino che aveva 12 anni allora, e il signore, il contadino che ancora vive. Quindi era un momento forse molto importante per poter fare questa ricerca, perché dopo poco a poco la gente è andata scomparendo. E quindi una volta avuta questa lista, si trattava di fare interviste, un po' le abbiamo fatte in casa degli intervistati, altre volte venivano al nostro domicilio, e le due modalità avevano dei pro e dei contro. Se li intervistavamo a casa loro, si trovavano a loro agio, c'era qualche parente che magari collaborava, se c'era una dimenticanza poteva aggiungere qualche dettaglio. D'altra parte, un inconveniente poteva essere che la persona intervistata si sentiva un po' condizionata da qualche parente. Ci è successo un caso di una signora che a distanza di una giornata, per un guasto del registratore, siamo dovuto andare una seconda volta a farle le domande. La prima volta in presenza del marito è risultato qualcosa, la seconda volta, che era da sola, l'intervista è stata molto più profonda e più consona alla realtà su un problema fondamentale che il giorno prima assolutamente non era saltato fuori. Un altro tipo di interviste le abbiamo realizzate presso molti esuli in Francia del paese e membri della, diciamo, dell'organizzazione regionale, e per noi è stata un'esperienza veramente indimenticabile, perché queste persone ci hanno ricevuto come figli, ci hanno ospitato in casa loro, ci hanno offerto tutto quello che avevano, e così come loro è stata molto molto importante l'intervista che abbiamo fatto al presidente della collettivizzazione, che abbiamo trovato con grande precauzione a Barcellona, dove abitava sotto falso nome, nascosto da anni, facendo i lavori più umili, e quando noi l'abbiamo trovato era vecchio, povero e invalido, e ci ha ricevuto anche lui come dei figli, e veramente è stato commovente trovare questa persona di un cuore enorme. Allora, in totale abbiamo fatto 40 interviste di lunghezza diversa e anche di valore, di peso diverso, e che abbiamo confrontato tra di loro e che poi abbiamo confrontato con le fonti scritte, con quello che avevamo. Naturalmente ci è stato molto utile anche l'appoggio dei nostri genitori, ai quali la dedica che vedete all'inizio del libro, a Encarnación e Joaquín, non è una cosa puramente formale, in quanto loro sono stati, non solo per questa ricerca, ma nell'arco della nostra vita, un punto di riferimento essenziale, perché credo che questa esperienza loro li ha marcati e ha lasciato qualcosa in loro che hanno saputo trasmetterci senza imporcelo. Quindi ringrazio loro, ringrazio Renato, che è stato l'artefice di questa edizione, in quanto con una pazienza da certosino ha lavorato durante lunghi anni leggendo tutto quello che usciva in Spagna, ha fatto la traduzione. E ringrazio il nostro caro amico Jean-Pierre Consa, che ci ha messo in contatto con gli editori e che grazie a lui questo libro ha potuto essere pubblicato. Ecco, io passerei la parola a Renato, vi ringrazio. Cari amici, parlare di un libro senza averlo letto, sentire delle considerazioni da parte di un autorevole professore come Claudio Benza, forse può così spiazzare l'uditorio, per cui io mi limiterei a raccontarvi brevemente qual è la struttura del libro, in modo che possiate apprezzare meglio le considerazioni di Claudio Benza, specialista di storia di Spagna e professore all'Università di Trieste. Ecco, qual è la struttura del libro? Dunque, si tratta di uno studio globale e irripetibile per le ragioni che sono state dette precedentemente, i testimoni non ci sono più, andava fatta in quel momento, oggi non sarebbe più possibile fare questo lavoro, di una comunità contadina durante la Repubblica tra il 31 e il 38, anche se per gli aspetti strutturali ovviamente si risale all'inizio secolo, per aspetti strutturali intendo la struttura della proprietà, la struttura e i cambiamenti demografici. È naturalmente, soprattutto nella seconda parte, un esame delle vicende di una collettività libertaria tra il 36 e il 38 in Aragona, e in questa versione che presentiamo in italiano rispetto a quella che era uscita in Spagna nell'83 e nell'84 abbiamo potuto fare spazio anche agli episodi legati alla repressione franchista, quindi dal 38 in avanti, perché nel frattempo i documenti sono venuti alla luce. Si tratta di un villaggio di 1600 abitanti che oggi ne conta solo 600, situato nella Bassa Aragona, nella provincia di Teruel, una delle più povere di Spagna, ma non miserabile, povere, sul confine con la Catalogna, quindi si parla un catalano, una forma di catalano un po' particolare, non puro, ma bisogna conoscere il catalano per capirsi. Tutti vivevano direttamente o indirettamente dell'agricoltura. Era un mondo rurale di piccoli proprietari con terra insufficiente da arrotondare con piccoli lavori ed economie. Scarsa era la circolazione e la disponibilità di denaro e di risparmio. Anche questo è un aspetto che abbiamo potuto misurare a fondo e con esattezza, grazie direi alla microstoria. Non avremmo potuto estendere questo studio ad una regione come la provincia di Teruel o la regione aragonese. Il latifondismo in questa zona è poco presente, anche se esiste, però non pesa. Cioè il grosso problema è, direi, l'assenza di terra sufficiente per famiglie di piccoli proprietari. L'emigrazione femminile è regolare, quella maschile verso la Catalogna è massiccia e legata soprattutto a cattive fasi climatiche, altrimenti la manodopera maschile riesce meglio tutto ad integrarsi nella comunità e non è costretta ad emigrare. Dirò poi perché e che importanza ha questa emigrazione in Catalogna, quindi verso Barcellona. La Repubblica, che giunge nel 1931, non risolve i problemi esistenziali del minifondo, non ha saputo avviare una vera e propria riforma agraria, e quindi è chiaro che i problemi fondamentali del mondo contadino sono stati unicamente sfiorati. In fondo la Repubblica da questo punto di vista non ha saputo attirare non la fedeltà ma le simpatie dei contadini, semplicemente perché ha dovuto affrontare altri problemi e ha lasciato irrisolto, del resto in buona parte della Spagna, il problema della terra. È stato avviato solo parzialmente in Andalusia. La comunità oscilla, direi, tra due poli, quello della diversità, della conflittualità di classe, della discriminazione, e quella dell'integrazione, della solidarietà, del forte controllo sociale, di forme di lavoro collettivo. Quindi ci siamo mossi in fondo tra questi due poli, studiando le forme di integrazione e quelle esperienze di lungo periodo che avrebbero potuto spiegare questa esperienza di lavoro collettivo, di collettivizzazione integrale che c'è stata durante due anni sostanzialmente nel paese, ma in tutta l'Aragona repubblicana, e dall'altro il sentimento di appartenenza di classe, che non è così semplice da scoprire come si potrebbe credere a prima vista, perché non è legato unicamente al possesso della terra, ma è legato alla casa, alle sue dimensioni, alla sua ubicazione, all'accesso alla comunicazione, quindi dai veicoli, alle radio, al giornale, ai alla possibilità di viaggiare, è segnata da una diversa alimentazione, da un diverso abbigliamento, da strategie matrimoniali diverse, dalle carriere per i figli. Ecco, quindi abbiamo dovuto disegnare con precisione e con fatica, direi, come e dove esistevano questi conflitti di classe. Questi contadini di Creta sono in gran parte analfabeti e spoliticizzati, ma durante la Repubblica vi sono degli elementi attivi che costituiscono delle società repubblicane da un lato e di destra dall'altro. E tra questi due poli, direi, nasce anche un'esperienza totalmente nuova per il paese, che è il sindacato cenetista. Cenetista viene da Confederazione Nazionale del Trabajo, quindi è un sindacato più potente di Spagna in questo momento. Nel 1936 contava 1,5 milioni di aderenti. L'altro grande sindacato era l'UGT, di ispirazione socialista, che ne contava altrettanti. Non so se nella storia d'Occidente ci sia stato un sindacato di questo orientamento così importante. Comunque sarà l'artefice questo sindacato con la FAI, sulla quale forse tornerà l'amico Venza, del processo di collettivizzazione anarchica. La tipologia del militante libertario, cioè anarchico, che sarà poi il gruppo che animerà questa esperienza, beh, intanto si tratta di un uomo giovane, di solito di famiglia povera, emigrato a Barcellona, che Venza ha definito ieri sera la Mecca dell'anarchismo, no? Autodidatta, quindi che ha imparato a scrivere da solo e ci tiene moltissimo. Questo l'abbiamo visto nelle interviste, quando abbiamo intervistato questi libertari, spesso loro tendevano a consegnarci un documento scritto a mano, dicendoci: guardate, quello che ci volete chiedere sta lì. Quindi bisogna poi fare uno sforzo per andare oltre questa barriera, anche perché spesso queste dichiarazioni scritte erano così abbastanza standardizzate, legate alla letteratura militante classica libertaria. Ecco, queste differenze sociali non possono assolutamente essere corrette dal comune, che è un comune povero. La spesa pubblica è in gran parte assorbita dagli stipendi o dei salari dei pochi funzionari di cui il comune può godere, tra cui primeggia la figura del segretario, che è il vero uomo di potere nella comunità. La solidarietà, per contro, si pratica tra famiglie, nella società stessa, e direi che il perno di questa comunità è la casa, è la famiglia. Ecco, accelero un po' perché altrimenti tolgo tempo prezioso alle considerazioni del professor Venza. Il 18 luglio del 1936, in fondo a Creta succede quello che è successo in Spagna. Cioè abbiamo un piccolo colpo di Stato nel villaggio, dove c'era un'amministrazione repubblicana di centro-sinistra. La destra si impadronisce del potere col sostegno della Guardia Civile e della Chiesa. Gli antifascisti sono costretti a fuggire verso la Catalogna perché temono per la loro esistenza, e risaliranno verso il paese dalla Catalogna qualche giorno dopo con le colonne di miliziani anarchici che liberano l'intera regione e sono diretti a Saragozza, dove non entreranno mai perché Saragozza rimarrà franchista. Ecco, con questa liberazione della regione, del distretto e del villaggio, è chiaro che i libertari legittimano in fondo il potere o la società o il modo di organizzare il paese che avverrà di lì a pochi giorni. E la stessa cosa succederà su scala regionale col Consejo de Aragón, che avrà sede a Caspe. Il 25 luglio il villaggio è quindi liberato, 70 uomini di destra che erano insorti fuggono a Saragozza e rimarranno 2 anni a Saragozza, dopo aver ucciso 2 innocenti sparando su un'ambulanza che si avvicinava a Creta. Le colonne miliziane entrano nel villaggio e tra il 25 e il 26 abbiamo, se volete, quella che per la Francia è definita la grande paura, no? Cioè una fase distruttiva, durissima, in cui primeggiano la lotta agli uomini, i rimasti, quelli che non sono fuggiti, pagano per altri, spesso sono anche persone che non avevano un grande ruolo, e Gamet ha detto sono 16 persone, e soprattutto c'è una distruzione dei simboli, degli archivi, ecco perché non troviamo i documenti, perché gli archivi sono stati buttati in piazza, sono stati incendiati, quelli della chiesa e quelli del comune, perché simbolizzavano ovviamente il vecchio potere. Le chiese sono buttate, le cappelle sono in parte distrutte, le strade sono ripattezzate, per cui Calle San Juan diventa la Calle Juan, punto e basta. Il 27 nasce un comitato antifascista, formato da 5 senatisti e 2 repubblicani, e a partire dall'agosto prende vita la collettività, che cerca di realizzare l'ideale del comunismo libertario. Le famiglie degli insorti sono costrette ad entrarci, almeno quelli che sono rimasti nel paese, gli altri sono costretti a Saragozza, abbiamo detto, ma soprattutto a questo nucleo di militanti libertari si aggiunge poco a poco buona parte della popolazione. La collettività di Creta raggrupperà praticamente i 2/3 della popolazione del villaggio. Un terzo invece si autoesclude, sono famiglie del ceto medio, repubblicane, ma ostili alla collettività e continueranno a vivere fuori dalla collettività. Nessuno, a parte le famiglie degli insorti, è costretto ad entrare nella collettività, quindi è un processo in parte volontario. Quali sono le basi della vita sociale? L'abolizione del lavoro salariato e l'organizzazione del lavoro collettivo in brigate di una 15ina di uomini per brigata, il libero consumo iniziale a ciascuno secondo i suoi bisogni, a cui che verrà corretto in un secondo tempo con forme di razionamento, perché ci si accorgerà che spesso questo libero consumo si traduce in uno spreco, l'abolizione della moneta. Questa non è una regola generale per tutte le collettività, ma a Creta la moneta è stata abolita e sostituita con dei pezzi di carta che posso mostrarvi. Semplicemente un pezzo di carta in cui è scritto ciò che uno può acquistare al di fuori della collettività con un timbro del sindacato anarchico. L'interscambio tra le collettività tramite un comitato distrettuale che si è occupato essenzialmente di questo problema, che era un problema fondamentale per rendere viabile economicamente il modello collettivista, il sostegno al fronte. Qui non bisogna dimenticare che praticamente il 20% della manodopera attiva maschile è stata reclutata sul fronte. Malgrado questo, le terre sono state lavorate interamente, quindi possiamo dire che con il 20% della manodopera maschile in meno, la coltivazione delle terre utilizzabili, coltivabili, è stata garantita da chi è rimasto, quindi direi che dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro le cose non sono andate male e soprattutto nessuno ha fatto la fame, anzi abbiamo avuto dei testimoni che ci hanno detto finalmente abbiamo mangiato abbastanza. La fame verrà dopo il 1938. La gestione del villaggio è garantita dal comitato che ho menzionato, dai responsabili delle brigate di lavoro e dalle periodiche assemblee della collettività che si svolgono mensilmente, in cui si rende conto del proprio lavoro e si ascoltano le lamentele dei membri della collettività. Ecco l'importanza dei verbali che abbiamo reperito, di cui ha parlato Encarnita. Vi saranno delle opere pubbliche nuove, fatte sotto la collettività, malgrado il breve lasso di tempo, il cimitero, il risanamento di zone acquitrinose, una fattoria collettiva, e naturalmente i servizi collettivi gratuiti, le scuole, malgrado la penuria di maestri, si nominerà addirittura un pastore alfabetizzato per insegnare ai piccoli a leggere e scrivere, visto che c'era carenza di insegnanti. Si garantisce la presenza del medico, del farmacista, si garantiscono dei viaggi a chi assolutamente deve uscire per andare a Tortosa, per esempio, dal dentista o all'ospedale. Il barbiere e gli artigiani svolgono gratuitamente le loro mansioni, il loro lavoro, perché sono comunque mantenuti dalla collettività. Nasce una nuova geografia del villaggio, all'interno del villaggio nuovi servizi collettivi sono situati soprattutto in piazza, la chiesa è diventata un grande magazzino nel quale si è aperto un grande spazio, no? In modo da lasciare entrare gli autocarri per scaricare olive e cereali, e soprattutto le case delle ricche famiglie diventano i nuovi centri sociali per anziani, per giovani, per le gioventù libertarie, no? Che sono in fondo l'elemento politicamente più dinamico. Ecco, io mi fermerei qua, spero con questo di avervi dato un quadro sufficientemente chiaro del grosso cambiamento avvenuto tra il 1936, 37 e 38. Nel 37 la collettività è attaccata a mani militari dalle forze repubblicane guidate da Lister, all'interno delle quali abbiamo una componente ormai predominante costituita dai militanti del Partito Comunista Spagnolo, non amica delle collettività. Del resto, per chi ha visto Tierra Libertà queste cose sono chiare, per chi ha letto Omaggio alla Catalogna, scusate, di Orwell. E nel 38, il primo aprile del 38 sarà l'occupazione franchista a mettere fine non solo alla collettività, ma come sapete alla democrazia in Spagna. Tra l'altro il paese sarà occupato in gran parte da soldati italiani. Sono molto contento di poter parlare a questo pubblico del libro dei due Simoni, che già conoscevo di nome, perché il caso del loro lavoro di ricerca, di scrittura, di diffusione dell'esperienza collettivista di Cretas ha circolato nella Spagna dei ricercatori di storia contemporanea e delle persone che sono sensibili alla questione della componente rivoluzionaria del territorio repubblicano durante la guerra civile. Quindi erano delle personalità già conosciute, ma mi ha fatto molto piacere adesso poter vedere il libro appunto nella sua versione in italiano, e anche la presenza di questa sera conferma che c'è un'attenzione ovviamente verso le persone, verso gli autori, ma anche più o meno direttamente attraverso questo, verso questo problema, verso questo tema. E il tema è quello della dimensione rivoluzionaria, sperimentalista, autogestionaria degli eventi tragici, ma anche molto importanti, degli anni del 1936-39. Questo libro costituisce una novità assoluta nel panorama editoriale in lingua italiana, perché io che frequento questi argomenti da non pochissimi anni, anche attraverso la gestione della rivista Spagna Contemporanea, che è una rivista che esce da una quindicina d'anni, nella quale schediamo tutto ciò che esce sul tema della Spagna dell'Ottocento e del Novecento, non ho potuto incontrare qualcosa di paragonabile, ma non solo in lingua italiana, nemmeno in lingua spagnola, ma di sicuro al 100% per quanto riguarda opere pubblicate in Italia. Se erano stati pubblicati due o tre titoli molto lontani nel tempo, negli anni 50, negli anni 70, delle traduzioni, ma questa scelta editoriale della Baronata è una scelta coraggiosa, estremamente positiva, e perché si tratta di un libro impegnativo, non è un opuscolo di poche pagine, di un discorso superficiale, e per usare un aggettivo molto esemplificativo, direi di un discorso televisivo, Ecco, non è un discorso televisivo che passa, che sembra dire qualcosa ma che impressiona per un po' e dopo viene macinato da discorsi successivi altrettanto superficiali, altrettanto dispersivi e più dannosi che inutili, secondo me. E invece questo è un libro che è stato studiato, è stato prodotto per chi ha il gusto della lettura, per chi trova un piacere nell'apprendere una realtà sconosciuta. È un libro impegnativo per impianto scientifico, corretto, valido, inappuntabile. È un libro anche impegnativo e coraggioso per le tesi di fondo. La tesi di fondo, che avete sentito enunciata prima, è che l'esperienza collettivista ha concretizzato un'aspirazione rivoluzionaria sociale presente in una parte considerevole del popolo spagnolo, che si è sviluppata ed ha funzionato all'interno di un contesto bellico, cioè di un contesto militare e militarizzato, che assorbiva le energie della società a scopo distruttivo, perché la guerra da un lato e dall'altro è un evento distruttivo. Ebbene, in questo contesto sfavorevole la collettivizzazione ha portato dei progressi sociali, dei miglioramenti concreti, tangibili, miglioramenti del livello di vita, ma ha portato soprattutto un altro clima psicologico, un altro modo di relazionarsi, un altro modo di pensare i valori fondanti della società. Sul tema della guerra civile, come tutti sanno, è stato scritto moltissimo e anche in Italia circolano testi, il più delle volte tradotti, di un livello abbastanza interessante, abbastanza positivo. Ultimamente Gabriele Ranzato, con la casa editrice Bollati Boringhieri, ha prodotto un'opera importante che si chiama L'eclissi della democrazia. Un'opera stimolante, ma un'opera parziale. Parziale nel senso che tratta gli eventi del 36-39 con un approccio, con un punto di vista molto legato, io direi molto subordinato alla logica istituzionale di vertice, alle questioni diplomatiche, ai dibattiti politici, ma che riguardavano proprio i professionisti, e invece non c'è nessuno spazio, purtroppo, agli eventi tormentati ma estremamente validi della rivoluzione sociale in corso. E questo si inscrive nell'immagine prevalente della guerra civile, che viene diffusa spesso anche nelle scuole, con due spiegazioni, due chiavi interpretative che non sono di per sé false, ma che sono limitate. La guerra civile spagnola come anticipazione della seconda guerra mondiale e la guerra civile spagnola come un conflitto tra fascismo e democrazia, no? Due chiavi interpretative molto simili che spesso coincidono. Basterebbe citare i classici lavori di Hugh Thomas oppure quelli di Paul Preston, che sono stati diffusi, quel Paul Preston, negli ultimi anni. Però io vorrei affermare un principio importante da un punto di vista storiografico, e cioè sono convinto che sia impossibile capire il carattere di scontro globale, di scontro radicale che avviene in Spagna tra il 36 e il 39, che oppone in una maniera lacerante, in una maniera sanguinaria, due Spagne, due Europe e due mondi, perché come sapete il contesto internazionale penetra dentro la Spagna e una parte dei conflitti a livello mondiale passano per il territorio spagnolo. Ebbene, è impossibile capire il significato storico della guerra civile se si prescinde dai contenuti reali della posta in gioco con il golpe del 18 luglio del 1936 fatto dai militari ribelli al governo repubblicano. Questo evento, questo golpe, questo alzamento, la propaganda franchista parlerà per anni del glorioso alzamento, e va capito dentro la storia della Spagna contemporanea, il che significa la storia dell'Ottocento, di tutto l'Ottocento e del Novecento fino agli anni 30. Perché ci sono problemi di lungo periodo, problemi di ampio respiro, che dei nodi che vengono al pettine in questo caldissimo luglio del 1936. Innanzitutto la questione della proprietà della terra. L'agricoltura è il settore produttivo principale nella Spagna dell'epoca. La proprietà della terra è prevalentemente in mano dei latifondisti, che costituiscono una classe dirigente, più che dirigente, addirittura di pura speculazione, di parassitaria, che non vive ad esempio sul territorio, ma vive lontana nelle grandi città e affida a dei funzionari il ruolo di spremere al massimo le capacità produttive, non tanto della terra, perché non fanno investimenti legati alla canalizzazione, per esempio, a nuove sperimentazioni, ma di spremere al massimo il lavoro bracciantile, il lavoro rurale, il lavoro delle centinaia di migliaia di persone che consumano la loro esistenza lavorando de sol a sol, cioè da quando nasce il sole a quando il sole tramonta, su questi territori sterminati, aridi e poco produttivi. Le classi dirigenti terriere non fanno investimenti, ma nemmeno lo Stato si assume nessun compito di intervento e di miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, perché lo Stato è schierato tradizionalmente fino al 1931 nettamente con i ceti dirigenti, con i ceti privilegiati. E dentro la storia della Spagna contemporanea gioca un ruolo particolare sia l'esercito, questo corpo separato e separatissimo della società, anzi un corpo antisociale che sfruttava le capacità di violenza dei ceti giovanili, delle classi giovanili maschili, per le sue soprattutto imprese coloniali. Ma gioca anche un ruolo terribile di conservazione e, come si diceva un tempo a ragione, con una conoscenza di causa, di oscurantismo sul piano culturale, la Chiesa Cattolica, per il quale l'istruzione è un pericolo pubblico. Il popolo non deve essere istruito, il contadino è poco più che un animale, a lui basta saper pregare e niente di più. Ebbene, tutti questi problemi emergono e cozzano ed esplodono nelle giornate del luglio 36. Ma dobbiamo risalire, brevemente ovviamente, ai primi anni dell'Ottocento, alla Costituzione liberale di Cadice, che pone improvvisamente, sembra, perché guardate, la Spagna è un paese che ieri come oggi è un paese delle sorprese, delle meraviglie, delle cose imprevedibili, no? Quello che è avvenuto 2-3 anni fa nessuno l'aveva previsto, questo cambio rapido, repentino, no? Del timoniere o dei timonieri della Spagna nel giro di pochissimi giorni, di pochissime ore. Bene, la Spagna nel 1812, con la sua Costituzione liberale di Cadice, inaugura l'epoca delle Costituzioni liberali a livello europeo. La Spagna arretrata, la Spagna decadente, la Spagna in disfacimento, la Spagna ricca e misera al tempo stesso, e produce un testo che sarà per decenni, anche per i militanti del Risorgimento italiano, un modello a cui far riferimento. In Spagna, cioè, l'Ottocento e il Novecento vede il conflitto, il braccio di ferro tra le spinte e la modernizzazione, le plurime spinte alla modernizzazione sul piano economico, politico e culturale. Una modernizzazione che vogliono sia i riformisti che i rivoluzionari, cioè vogliono sia i liberali e i repubblicani che gli anarchici e socialisti, e che cercheranno in un modo o nell'altro negli anni 30 di realizzare. Da un lato questa modernizzazione laica e libertaria e dall'altro le controspinte verso la conservazione, la reazione, il ricondurre la Spagna al mito dell'impero, cioè del nazionalcattolicesimo, cioè della coincidenza degli interessi nazionali con gli interessi della Chiesa Cattolica. Il volume dei Simoni offre un contributo di grandissimo rilievo, per dare un senso alla componente della rivoluzione sociale che è la componente prevalente nel settore repubblicano fino al maggio 1937, fino cioè a questo scontro interno agli antifranchisti che tra loro si neutralizzano in qualche modo. Ci sono 500 morti per le strade di Barcellona in seguito ad un'iniziativa presa dalla polizia politica, da una pattuglia di polizia politica controllata dal Partito Comunista Spagnolo, a sua volta in questo caso il PSUC, il Partito Socialista di Unificazione de Catalunya, controllato a sua volta, entrambi il PC e il PSUC, da Mosca, dalla Terza Internazionale, da Stalin. Si è voluto nel maggio 1937 porre un limite, un ridimensionamento brutale in vista della loro eliminazione a tutte le tendenze rivoluzionarie, oltre ai limiti, ma non alla distruzione dell'anarchismo, perché aveva una forza, una dimensione e un peso, quindi anche nella lotta militare in corso, troppo importante, per cui non poteva essere eliminato, mentre è stato eliminato il POUM, come si sa. Ebbene, le forze rivoluzionarie bisognava bloccarle dal punto di vista della restaurazione di una società gerarchica tradizionale, sia sul piano della lotta armata, ultimando lo scioglimento di ciò che restava ancora delle milizie, cioè di queste forme spontanee, sindacalizzate, coscienti e veramente volontarie di lotta armata contro il franchismo. Quindi le milizie vengono completamente, definitivamente messe da parte, accantonate, negate, per creare invece un esercito tradizionale che ha l'etichetta repubblicana, ma che è un esercito che va contro il tradizionale antimilitarismo molto diffuso nelle classi lavoratrici spagnole. Ebbene, si vuole anche fermare la rivoluzione culturale, cioè l'aumento del protagonismo della donna sulla scena sociale, questa grande conquista che da un lato e dall'altro, in senso riformista, in senso rivoluzionario, aveva portato alla creazione di associazioni di mujeres libres, per esempio quelle di tendenza libertaria, o mujeres antifascistas. Comunque la donna non era più rinchiusa, come era stato tradizionalmente e come sarà dopo, tragicamente, durante il franchismo, nel focolare di casa, non era relegata e rinchiusa nelle questioni domestiche, ma invece prendeva la parola e l'iniziativa anche sulla scena pubblica e politica. E inoltre era anche avanzata con la rivoluzione culturale la laicizzazione, che non era solo, come è stato presentato successivamente, uno scontro violento con la Chiesa, ma era anche la creazione di una cultura diffusa negli strati anche più umili della popolazione e una cultura critica nei confronti dei valori tradizionali e tradizionalmente imposti. E poi c'era l'aspetto di cui stiamo parlando, cioè la rivoluzione sul piano economico produttivo, le collettività. Il caso di Cretas ci porta a una collettività rurale, ma non erano solo nelle campagne, bensì anche nelle città che le collettività si organizzavano e sperimentavano delle forme che oggi chiamiamo di autogestione. Le industrie di Barcellona, che era la città più industriale della Spagna, i servizi di questa metropoli che aveva circa 1 milione di abitanti funzionano, malgrado tutto l'ambiente circostante sfavorevole, grazie al lavoro, all'impegno dei militanti sindacali, ma anche degli operai, per così dire, qualunque, no? Perché c'è uno spirito molto concreto e molto costruttivo nelle classi lavoratrici, che consideravano anche nell'industria i vertici come dei parassiti e volevano dimostrare, il problema sì, non è di facile soluzione, ma volevano dimostrare di essere in grado di far funzionare le fabbriche. Ora, è ovvio che far funzionare una fabbrica è più difficile che far funzionare un campo, una campagna, una produzione rurale, e quindi devono affrontare altri problemi su cui ovviamente adesso non entriamo nel merito. Ma concludiamo questa contestualizzazione ricordando che le collettività rurali non investono solo l'Aragona e la Catalogna rurale, ma anche regioni diverse tra di loro. La Valencia o il Levante, dove l'agricoltura è un'agricoltura ricca, è un'agricoltura di esportazione di prodotti di prima qualità, le arance, gli agrumi, che vengono trasportate verso i paesi dell'Europa centrale, tradizionalmente in questo caso soprattutto verso la Francia e la Gran Bretagna. Oppure anche nella Castiglia o nella Andalusia, nella parte più orientale dell'Andalusia, che non viene subito occupata dalle truppe, allora agli ordini dei vari generali, su cui poi emergerà la figura di Franco. Le collettività tra di loro sono molto diverse, non c'è un unico modello, e tra di loro sono coordinate. Si è parlato in altre occasioni, troverete qui anche i riferimenti, alla creazione di una federazione delle collettività aragonesi, che cerca di fare in modo che le singole esperienze entrino tra di loro in un rapporto, e qui va rivendicato il valore positivo della parola, un rapporto federalistico, un rapporto cioè di collaborazione su un piano di parità. Il federalismo era il tratto caratteristico dei progressisti nella Spagna dell'Ottocento. Quando arriva Bakunin, e la sua parola che trova l'ascolto maggiore, perché Bakunin è un federalista, mentre Marx è un centralista, e questo avrà una conseguenze molto importanti nella successiva storia del movimento operaio. Ebbene, il lavoro dei Simoni è anche un esempio di microstoria, cioè di una storia fatta quasi con il microscopio, fatta quasi come in un laboratorio scientifico, perché si affronta un caso specifico, appunto sono 1600 abitanti, ma attraverso questo caso specifico i problemi che convergono su Cretas sono i problemi che troviamo anche, questo lo posso dire sulla base dei documenti che ho letto all'archivio di Salamanca, che troviamo anche in altre regioni della Spagna in quegli anni. Quindi las actas, cioè i verbali che voi avete consultato, sono documenti preziosi, che hanno altri documenti preziosi che potrebbero portare anche alla ricostruzione più minuziosa di altre esperienze collettiviste. Si è detto di Cretas, che di questo pueblo, che si basa su un'agricoltura povera, che ruota attorno a due o tre prodotti, l'olio, il grano e le mandorle. C'è un po' di allevamento, ma quello che è importante del quadro, nella fotografia, qui ci sono quasi un centinaio di pagine dedicate alla descrizione minuziosa della vita, delle tradizioni, dei luoghi, dei modi di incontro, dei giochi, delle strutture familiari di questo villaggio aragonese catalano. Quindi i Simoni hanno anche utilizzato un approccio antropologico, demografico, degli strumenti di sociologia, e hanno studiato anche le tradizioni popolari. Insomma, si tratta di un lavoro condotto con tenacia, con passione, oltre che con competenza scientifica. E le sono pagine scritte in un modo vivo, proprio traspare la passione e traspare anche al lettore il coinvolgimento dei nostri autori. Dico ancora due parole su qualche problema, no, che noi troviamo evidenziato in questo intreccio del piccolo paese. I rapporti fra gli ideali e gli interessi concreti, no? Ci troviamo qui in un'esperienza di autogestione che ha alle spalle un movimento anarcosindacalista che aveva fissato tutta una serie di principi di orientamento, ma anche si tratta di un movimento e di protagonisti che hanno i loro interessi, l'interesse di sopravvivere, ovviamente, quindi di soddisfare i bisogni essenziali, e l'interesse di liberarsi, cioè di creare una nuova società. Qui ci troviamo, allora introduciamo un elemento un po' scherzoso. Prima si è detto di Barcellona come la Mecca dell'anarchismo, e io l'ho detto ieri nell'altra presentazione, però ho citato le parole di un personaggio molto originale, di una ministra anarchica, non è un personaggio molto frequente sulla scena politica né di ieri né di oggi, la Federica Monsegne, la quale appunto orgogliosa di essere in qualche modo la rappresentante di Barcellona, quando parlava ai propri compagni di vari paesi d'Europa e del mondo, diceva che Barcellona, tutti gli anarchici devono andare a Barcellona, così come gli islamici devono andare alla Mecca, eccetera. E si diceva ieri, per scherzare, che se Barcellona è la Mecca, Cretas potrebbe essere la Lourdes della situazione, cioè appunto astraendola da un contesto religioso serio, ma è un posto, non è l'unica Lourdes della Spagna del momento, è un posto in cui un messaggio, potremmo dire usando una parola così un po' tirata per i capelli, evangelico, no? Di fraternità, si concretizza e si realizza. Quindi c'è un miracolo, tra molte virgolette, che noi possiamo trovare all'interno di queste collettività. In effetti, per chi ha visto il film Tierra e Libertà e ha analizzato anche la formazione della collettività, così come emerge dal dibattito dell'assemblea, vede che su questa assemblea, su questo dibattito di militanti, convergono problemi che riguardano il movimento operaio, il movimento socialista, i movimenti rivoluzionari di mezza Europa, perché lì ci sono anche i combattenti che vengono da altri paesi europei. Ebbene, tutti questi problemi sono trattati, secondo me, in un modo molto convincente e seguendo tutte le evoluzioni tappa per tappa. Faccio ancora due brevissime considerazioni su alcuni piccoli gioielli che secondo me sono presenti all'interno delle pagine di valore di questo libro, come le considerazioni che emergono dal libro delle scuole elementari del 1932, un manuale per le scuole elementari del periodo repubblicano. Vi consiglio, se avrete occasione, di vedere un film che si chiama, di cui esiste anche in italiano il DVD, non esiste purtroppo la pellicola, si chiama La lingua delle farfalle, ed è un film ambientato nella Galizia, un'altra regione spagnola, in questo caso nord-est, degli anni 30, che termina tragicamente con il 18 aprile, con il 18 luglio del 36. Ebbene, lì si vede tutta una tensione, tutto uno sforzo gigantesco, titanico, che fanno i nuovi maestri repubblicani, che sono stati investiti di un compito di alfabetizzare, ma anche di dare strumenti moderni e critici alla popolazione. Ecco, questo è il libro che è stato poi restampato dalla casa editrice, che si trova in questa forma, no? Adesso. E quindi è un testo molto, molto gustoso. Seguendo in queste pagine vediamo anche, per esempio, una rappresentazione della mappa del villaggio, in cui, conoscendo la condizione economica delle varie famiglie, si è potuto istituire una graduatoria, no? Trovare una gerarchia delle collocazioni delle diverse famiglie, per cui possiamo vedere i settori di questo villaggio dove vivono le famiglie ricche, quelle del ceto medio e quelle più povere. E questo è anche un lavoro estremamente interessante, perché ci ridà ulteriormente quella concretezza, quel profumo, quel sapore che ha questa esperienza di Cretas. E volevo ancora concludere con un piccolo riferimento letterario. Qualcuno di voi forse ha avuto tra le mani anni fa un libro che adesso circola abbastanza poco, che è un libro di memorie di un personaggio politico italiano che è stato anche importante nella storia del Partito Comunista Italiano dopo il 45. Un personaggio che è stato partigiano durante la Resistenza e che è stato prima in Spagna, ma è stato in Spagna non dalla parte, come si dice di solito, giusta, che era la parte minoritaria d'altronde, tra i 4-5 mila antifascisti, ma è stato con le truppe, con l'esercito, e lui è andato volontario come ufficiale alla ricerca di un'avventura semi-esotica, in Spagna, ed è Davide Laiolo. Davide Laiolo ha scritto il libro Il Volta Gabbana, e nel libro Volta Gabbana abbiamo trovato, proprio casualmente, non si finisce mai di trovare, in questi giorni tre pagine dedicate a Cretas. Lui arriva con le truppe italiane a Cretas e non racconta di scontri, perché Cretas cade, ormai sono fuggiti verso la Catalogna coloro che potevano resistere, una parte della popolazione anche si è allontanata, occupano la città. Lui parla, perché comunque ha una curiosità umana, nelle sue memorie ricorda del discorso e del dibattito con una giovane roja, cioè rossa, con una giovane oppositrice, che gli presenta, pur su un piano della sconfitta, una visione di orgoglio e di attaccamento all'esperienza che hanno appena vissuto. E la controprova, se vogliamo, da un altro punto di vista, del grande significato che ha questo villaggio piccolo, ma nel quale noi ritroviamo veramente una delle diverse, diciamo, aspirazioni dell'umanità, per allargare il discorso in termini molto molto ampi, verso la libertà e verso l'uguaglianza. Grazie. A cura di www.scatolanera.ch.